siamo arrivati a costituire AMAS Emilia Romagna, Assemblea dei Movimenti Ambientalisti e Sociali, al termine di un percorso che sostanzialmente è iniziato con la manifestazione del 26 ottobre dell'anno scorso. 26 ottobre dell'anno scorso abbiamo convocato una manifestazione regionale, lo facemmo come RECA, come Lega Ambiente Regionale, Comitato Besta di Bologna, COBAS di Bologna, il Comitato contro ogni autonomia differenziata, un altro Appennino possibile, USI, CIT di Bologna, Parma, Reggio e Modena, mettendo insieme tutte queste sigle che appartengono al mondo ambientalista, al mondo sociale, sostanzialmente per chiedere una svolta profonda nelle politiche ambientali e sociali della regione. Appunto, a partire da quella manifestazione questo rapporto si è consolidato e quindi appunto proprio ultimamente abbiamo dato vita a questa rete AMAS Emilia Romagna, che segnala il fatto che vogliamo mettere insieme le questioni ambientali e sociali della regione, sia perché le questioni ambientali e sociali sono strettamente connesse tra di loro, sia perché riteniamo che rispetto alle politiche e alle scelte che sta compiendo la regione non ci siamo né sui temi ambientali né sui temi sociali. Abbiamo dato vita a questa nuova rete, a questa nuova aggregazione, tra l'altro dentro questo percorso si sono aggiunti anche altri soggetti, con l'idea in qualche modo di costituire appunto una soggettività che incida e provi a far avanzare proposte alternative per quanto riguarda appunto i temi ambientali e i temi sociali. La lista delle rivendicazioni è molto lunga, parte dalle 4 proposte di legge di iniziativa popolare in tema ambientale che furono presentate oramai quasi 2 anni fa e che non sono mai state discusse? Partiamo dalle 4 leggi di iniziativa popolare presentate ancora nell'autunno del 2022 da Reca Lega Ambiente. Ricordo che sono 4 leggi molto importanti perché affrontano i temi dell'acqua, i temi dei rifiuti, il tema dello stop al consumo di suolo, il tema dell'energia e della transizione energetica. Quelle 4 proposte di legge non furono mai discusse nella legislatura scorsa, nonostante la normativa regionale preveda che entro 18 mesi l'assemblea regionale si debba pronunciare. Poi ci fu l'interruzione della legislatura, come noto, perlomeno le leggi di iniziativa popolare passano anche alla legislatura successiva, nella legislatura con il presidente De Pascale. Ora sono state assegnate alla terza commissione ambiente esattamente il 12 febbraio, quindi ormai sono passati più di 3 mesi e praticamente è tutto fermo lì, la discussione non è neanche iniziata. Ricordo che i tempi per la discussione dovrebbero essere che nei primi 6 mesi si lavora nella commissione consiliare e poi il tutto viene presentato all'Aula, all'Assemblea legislativa, che ha un anno di tempo per pronunciarsi definitivamente. Bene, il primo elemento che balza agli occhi è che appunto la Commissione Ambiente ha già perduto metà del tempo che ha a disposizione per esaminare le proposte di legge e la discussione non è neanche iniziata. Questo già la dice lunga sul fatto che non si prendono in considerazione i temi che abbiamo sollevato, soprattutto temi che sono supportati dalla sottoscrizione di più di 7.000 cittadini che si presentano come legge di iniziativa popolare. Un elemento che ci ha portato a indire il presidio per martedì, oltre a tutta una serie di questioni altrettanto rilevanti che investono i vari ambiti delle politiche ambientali e sociali della regione, dall'uscita dell'economia del fossile alla ripubblicizzazione dei beni comuni, alla moratoria sulle grandi opere stradali e autostradali a partire dal passante di mezzo di Bologna, alla cancellazione e la rivisitazione della legge urbanistica, l'intervento sulla montagna. Insomma, abbiamo una vera e propria piattaforma alternativa sulle politiche sociali e ambientali e vorremmo che tutto questo si potesse discutere e si potesse investire l'insieme della città regionale. Ultimo passaggio è che poi ovviamente noi avanziamo le questioni che riguardano le scelte su cui interviene la regione Emilia-Romagna e contemporaneamente però abbiamo la consapevolezza di stare dentro uno scenario ben più generale, per cui appunto ci colleghiamo anche alle mobilitazioni che sono in corso anche a livello nazionale contro quello che sta succedendo a Gaza, contro il decreto legge cosiddetto sicurezza che in realtà produce una svolta repressiva e anche contro le politiche di riarmo che provengono dall'Unione Europea, perché ovviamente tutto si tiene. Quindi noi martedì andiamo sotto la regione per dire che la regione deve cambiare strada, abbiamo ben presente che questo cambiamento va prodotto anche a livello nazionale, anche d'Europa.